Eravamo tutti lì, i suoi migliori amici, gli unici che gli erano rimasti vicino fino alla fine. To the people we want to be. Suonavamo insieme, molto tempo fa. Nessun giornalista si era fatto vivo al funerale. Del resto il punk era già morto da un pezzo. To the music that never ends. Il suo desiderio era di essere cremato. E così avevamo fatto. Nel testamento aveva lasciato detto che ognuno dei suoi amici avrebbe dovuto farsi una pista con le sue ceneri. Che cosa? Erano come dei piccoli cristalli scuri, dovevano fare un male pazzesco. Non siamo mica obbligati a sniffare la nostra parte, vero? Keith Richards si è fatto una pista con le ceneri di suo padre. Non è che dobbiamo fare qualunque cazzata abbia fatto Keith Richards. Shh. To the people we want to be. Non la guardai nemmeno la mia parte di ceneri. Le rotolai nel foglietto in cui si trovavano e le rimisi in tasca. Volevo portarle a casa e spargerle in giardino. Sulle piantine di marijuana. Bravo, così invece di sniffarlo finirei per fumartelo. To the music that never ends. Eravamo stati a trovarlo in ospedale qualche giorno prima. Gli avevano messo un tubo di plastica in gola e non poteva parlare. Poi mi ha guardato come se volesse dire qualche cosa. Io mi sono avvicinata, lui mi ha preso la mano e mi ha detto... Cosa? Che cosa? Mi ricordo! Mi ha detto mi ricordo! Hey, it's supposed to be a... Just a summer's day, drink sangria in the park. Then later when it gets dark, we go home. Mi ricordo la prima volta che ascoltai Velvet Underground. Avevo 14 anni e mi stesero completamente. Mi innamorai subito della musica dei Velvet, perché parlava di storie di strada, di droga, di sesso, a volte di un sesso di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza. Era tutto così trasgressivo, io non avevo mai sentito storie come quelle in una canzone. Lou Reed era gay e io ero così affascinato da lui che ho cominciato a pensare non sarebbe fantastico essere gay. Io l'ho fatto un tentativo. Una volta ho provato a fare un pompino a un tizio, ma quello mi ha detto lascia perdere, non è roba per te. Ho sempre avuto paura dei genitori di Lou Reed. Sua madre era una specie di ex reginetta di bellezza e suo padre un contabile. E non sopportavano il fatto che lui diventasse un musicista e soprattutto che frequentasse gente poco rispettabile. Ogni volta che lui si beccava l'epatite loro minacciavano di mandarlo in manicomio. Ma da ragazzino l'avevano già fatto rinchiudere in un ospedale psichiatrico. Gli avevano fatto fare anche l'elettroshock. Penso che le cose migliori scritte da lui vengano tutte da lì. It's my wife. It's my life, because of me to my vein. Ti mettono un aggeggio in gola per non farti ingoiare la lingua. E poi ti piazzano degli elettrodi sulla testa. Il risultato è che perdi completamente la memoria e diventi una specie di vegetale. È il trattamento raccomandato da queste parti per scoraggiare i comportamenti omosessuali. Pensate che gli anni 60 siano stati anni di libertà e di apertura? Beh, la verità è che la stragrande maggioranza delle persone era molto regolare. In America la gente ti inseguiva per strada per picchiarti solo perché portavi i capelli lunghi. Erano fuori di testa. Eri una specie di freak, uno scherzo della natura. Eri diverso dagli altri. E i Velvet Underground dovevano sembrare proprio un gruppo di pazzi. Andy Warhol invece li trovò molto interessanti e decise di produrre il loro primo disco. E questa chi è? Stai scherzando? Lei è Nico! E cosa ci fa? Andy vorrebbe che prendesse il tuo posto e diventasse la cantante dei Velvet Underground. Ciao tesoro. Io sono un succhiacazzi. Tu? LSD. Me lo faccio arrivare dalla Svizzera. Noi siamo più gente da tranquillanti. Gli altri gruppi si fanno di acidi. Andy Warhol e il suo seguito si fanno di anfetamine, metedrine e speed. Sono dei maniaci schizzoidi. Ci sono questi artisti che spruzzano inchiostro colorato sulla tela con le siringhe e poi usano le stesse siringhe per farsi. Un giorno un tizio si è presentato al Max con un braccio fasciato. Si era fatto una pera di speed e non aveva più smesso di spazzolarsi i capelli per 3 giorni. Una cosa talmente grande che la gente dovrebbe cominciare a morire per il rock, perché ti permette di sognare, ti restituisce il tuo stesso battito, popò, popò, popò, un'intera generazione che corre al ritmo di un basso Fender, popò, popò. La gente dovrebbe proprio morire per la musica. O forse sono io che dovrei morire. Tutti i grandi del blues sono morti. Tanti muoiono per delle cazzate. Perché non per la musica? Muori per lei. Non moriresti volentieri per qualcosa di carino? Naturalmente Lou Reed e Nico finirono a letto insieme, ma non durò molto. Ognuno di loro voleva essere la star. Devo smetterla di distrarmi dalla musica. Devo smetterla di andare a letto con gli ebrei. When the Führer says, "Wie ist the master race? Wie heil, heil, right in the Führer's face." A 16 anni non avevo molti amici. Sono sempre stato un po' strano. A scuola ero quello diverso dagli altri. L'ho sfigato. Mi ero fissato col nazismo. Riempivo i libri di svastiche. Ho persino preso lezioni di tedesco per ripetere i discorsi di Hitler. Ma voglio dire, in giro c'erano i figli dei fiori e gente che parlava di pace e amore. A me non andava per un cazzo di integrarmi. Mi sento a disagio dovunque mi trovi. La mia sensazione predominante è il desiderio di andarmene via, sempre. E qualsiasi sentimento provi viene dal tentativo di capire perché ho voglia di andarmene. Adesso ho solo voglia di uscire da questo posto. Non perché ho voglia di andare da un'altra parte, no. È solo che ho voglia di andare via da qui. Mi cacciano da scuola. Vaffanculo! Io mi vendo la moto e con i soldi mi compro un biglietto per Londra. Era da un sacco di tempo che volevo vedere un concerto degli Who. E proprio in quei giorni suonano al Cavern! Sono sotto il palco! E in quel momento Pete Townsend alza la chitarra sopra la sua testa e inizia a spaccarla dando delle botte tremende sul palco! E allora quando è che ti senti a tuo agio? Quando dormo. Richard Hell, sei felice di essere nato? Ho i miei dubbi. Una folla satanata di persone cerca di afferrare i pezzi della chitarra di Townsend. Ma lui li ricaccia tutti quanti indietro, facendo mulinare la chitarra sopra le loro teste. Il pubblico non urla per acclamarli, è più un suono animale, un ululato. La sala emana energia primordiale, un branco di belve feroci a cui hanno gettato un pezzo di carne. Sapete, secondo Nietzsche, quando una cosa ti fa ridere, quello sta a indicare un'emozione che è morta. Quindi ogni volta che voi ridete, quella era un'emozione vera che non esiste più dentro di voi. Io non ho mai visto gente impazzita in quel modo. Quella musica aveva un effetto pazzesco su quelle persone. Io sono lì che li guardo urlare, agitarsi. E poi guardo Pete Townsend sul palco. E in quel momento capisco che è questo. È esattamente questo che voglio fare. Forse è per questo che io trovo così divertenti voi e tutto il resto del mondo. Ma non è affatto divertente, Richard. Questo è perché le vostre emozioni sono tutte morte. Ma come si fa ad ascoltare un disco che suona come questa merda? Velvet Underground. Ma è disgustoso. È disgustosa merda per fricchettoni, noi non ascoltiamo questa roba. Questi fanno proprio vomitare. Naturalmente dopo una settimana Iggy cambiò idea e cominciò a dire che era un disco fantastico. Ho capito una cosa. Si può fare ottima musica senza essere grandi musicisti. Guarda Mick Jagger, quello canta una nota sola. E i Velvet sono musicisti scadenti. Voglio mettere su una band. Voglio mettere su una band per dimostrare a tutti che sono bravo quanto gli altri. Io vi obbligherò a prestarmi attenzione. Oh! Ci chiameremo The Stooges. Iggy Pop and The Stooges. Come quei comici deficienti? Figo, no? Figo. Per il nostro primo concerto Iggy si conciò in un modo assurdo. Aveva una camicia da notte lunga fino ai piedi, la faccia completamente imbiancata e delle treccine fatte con la carta stagnola. Pensavamo tutti che non ci avrebbero nemmeno lasciati entrare nella sala del concerto. Basta, basta. Iggy, lo senti che è tutto distorto e non si capisce un cazzo di quello che stiamo facendo? Dobbiamo far crollare i muri. Dobbiamo stendere il pubblico dal primo all'ultimo. Dobbiamo fare qualcosa di completamente diverso. Alzalo al massimo, mettilo a 10. A 10! Voglio che la musica esca dalle casse, ti prenda per la gola, ti sbatta la testa contro il muro, ti ammazzi! È questo quello che voglio! Ok, dai, allora lo mettiamo a 3? Dai, lo mettiamo a 3, mettilo a 3, lo mettiamo a 3! Mettilo a 10! A 10! Pensi che Iggy potesse essere uno di cui Nico si sarebbe innamorato. Perché Nico si innamorava sempre di chi era estremamente intelligente, o tossico, o pazzo. Devi essere completamente intossicato per fare quello che fa Iggy. E invece lo sei solo in parte. Devi esserlo completamente. I concerti cominciarono a peggiorare di brutto. perché Nico era come l'erba cattiva. Non era affatto la ragazza della porta accanto. Non posso assolutamente fare 4 spettacoli di fila senza droghe. Droghe pesanti. Questo vi costerà un sacco di soldi, ma vi rifarete. Oh, se volete continuare il tour, i patti sono questi. La mia è una richiesta molto ufficiale e molto logica. È una proposta d'affari, ok? No! Fans erano delle autentiche schifezze. Sembrava che piacessimo solo alle ragazze più brutte e ai ragazzi più ignoranti. E Iggy si trovava perfettamente a suo agio con loro, perché aveva capito esattamente cosa avessero bisogno di ricevere da lui. E lui non si tirava mai indietro. Era capace di salire sul palco tenendo in equilibrio una panca da 100 kg sopra la testa di quelli della prima fila. Pensavi che sarebbero finiti spiaccicati, e invece Iggy riusciva a fermarsi a mezz'aria, come Nadia Comaneci. E loro impazzivano. Oppure era capace di rotolarsi sopra i vetri di una bottiglia rotta e continuare il concerto completamente coperto di sangue, così come se niente fosse. Non c'era finzione in quello che Iggy faceva, mai. Ed è per questo che la gente impazziva per lui. Iggy era veramente pericoloso. Gentlemen and children of all ages, welcome to the Little Hippodrome. Are you ready? Can you see it? The fabulous New York Dolls for your encore! Quale dietro al fatto di vestirci da donna? Noi siamo etero, siamo un gruppo di ragazzi che fa le prove in un magazzino e ha deciso di suonare insieme, anzi siamo fissati con le ragazze. Sono gli uomini ad essere confusi, le donne ci capiscono al volo e ci adorano perché abbiamo le palle di farci vedere così. Ci sono tutti questi residuati bellici degli anni 60 che suonano negli stadi, che vengono trattati come gente veramente importante. Guido una Cadillac rosa, vivo in una gabbia dorata. Oh. La musica è diventata troppo artefatta. Questo non è rock and roll. I New York Dolls invece sono dei ragazzi di New York City che sputano e scorreggiano in pubblico. La gente viene a vederci e dice: cazzo, chiunque può fare musica come questa. E il giorno dopo creano nuove band e iniziano a suonare. È chiaro quello che stiamo facendo al rock and roll. Lo stiamo riportando nelle strade. Lavoravo in una fabbrica di carrozzine per bambini. Durante la pausa pranzo andavo sempre in una piccola libreria al di là dei binari della ferrovia. Un giorno, mentre giro tra gli scaffali, trovo la versione tascabile delle Illuminazioni di Rambo. La foto in copertina era tutta sgranata, quella foto mi piaceva da impazzire. Rambo aveva la faccia da genio, l'ho presa all'istante, non sapevo neppure di che cosa si trattasse. Pensavo solo che Rambo fosse un nome figo. Probabilmente io lo pronunciavo Rainbow! E mi pareva terribilmente figo. G Gesù è morto per i peccati di qualcun altro, non per i miei. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Mischio le carte ad un tavolo di Bari. Ho un asso nella manica, il cuore duro come la pietra. I miei peccati appartengono a me. A me solo. La gente dice, attenta, ma io non li do ascolto. Là c'è regole, sono solo parole per me. Vado a questa festa, ma mi annoio già. Guardo fuori dalla finestra e vedo una piccola dolce cosa che si arrampica sul parchimetro, che si piega sul parchimetro. Sta così bene. È così bella. E io ho questa pazza sensazione che la farò mia! Butto il mio incantesimo su di lei ed eccola che viene, camminando sulla strada, eccola che viene, entrando attraverso la mia porta, eccola che viene, strisciando per le scale, eccola che viene, danzando in un bel vestito rosso per la sala. Sta così bene. Così bella. E io ho questa pazza sensazione che la farò mia! La maggior parte delle mie poesie si rivolge alle donne perché le donne mi ispirano di più. Cosa sono la maggior parte degli artisti? Uomini. Da chi vengono maggiormente ispirati? Dalle donne. E così la mia parte maschile viene ispirata dal femminile. Io mi innamoro degli uomini. Mi piacciono gli uomini. Non sono una da movimento di liberazione delle donne. Non posso scrivere del mio uomo perché in qualche modo dipendo da lui. Ma posso scrivere di una donna. Così posso fare la parte del maschio. Posso farne la mia musa! Allen Ginsberg credeva che fossi un bel ragazzo. E una sera addirittura cercò di rimoschiarmi. Io ho dovuto fermarlo. Ho detto, Allen, aspetta, guarda. Queste sono tette, Allen, guarda le tette. Gesù è morto per i peccati di qualcun altro, non per i miei. Avevamo deciso di formare una band. Io non avevo la minima idea di come si accordasse una chitarra e riuscivo a fare solo l'accordo di Mi. Joy aveva deciso di mettersi alla batteria. Dopo 2 ore era ancora lì che la stava montando, così noi, stanchi di aspettare, cominciamo a suonare. Finita la canzone, mi volto e vedo che Joy non era riuscito a montare nemmeno lo sgabello della batteria. Aveva suonato tutto il tempo seduto sulla base. Didi doveva cantare e suonare la chitarra. Ma dato che non è capace di fare 2 cose contemporaneamente, quando iniziava a cantare smetteva di suonare. Dovevamo decidere chi sarebbe stato il cantante del gruppo. Joy aveva visto una madre rincorrere suo figlio per strada con una mazza da baseball e ci aveva scritto una canzone, Beat on the Bread. Dato che era lui che l'aveva vista, decidemmo che sarebbe stato lui il cantante e io il bassista. Poi tutti presero il cognome Ramone e lo aggiunsero al proprio nome. E così diventammo i Ramones. All'inizio 70 ho 19 anni e sembra che non si possa fare niente senza un sacco di soldi. Vaffanculo! Chi se ne frega se non sappiamo suonare e non abbiamo buoni strumenti? Noi lo facciamo lo stesso, perché voi non siete altro che una manica di stronzi! Questa rabbia riguardava i soldi, il fatto che la cultura era diventata aziendale, che ce l'avevano strappata di mano e tutti quanti cercavamo disperatamente di riprendercela. Il CBGB era diventato l'ombelico del mondo. Ci suonavano Patti Smith, i Ramones, i Television, i New York Dolls. Tutti a suonare quella musica che non aveva ancora un nome. Ubriaco, feccia, marcio, sporco, ridicolo, furbo, oscuro, non vale un cazzo, ironico. Punk is coming. Punk? Che diavolo è? Una band o che cosa? No, no, è... Viene dalla scimmia sulla schiena, di Burroughs. Il libro di William Burroughs! Ho sempre pensato che un punk fosse uno che lo prendeva nel culo. Avevamo perso la guerra in Vietnam contro dei ragazzini armati solo di bastoni. 50.000 soldati americani erano morti, Nixon aveva dato le dimissioni a causa dello scandalo Watergate e la città di New York aveva dichiarato bancarotta. Rispetto a quello che succedeva nel mondo reale, la decadenza era un vezzo. Il punk andava oltre la decadenza. Il punk era l'apocalisse. Non abbiamo grandi ragioni per essere idealisti. Questa è l'epoca in cui il capitalismo è diventato cool, baby. Questo è ciò che siamo. La generazione vuota. La blank generation. Mi chiamo Didi. Didi Ramone. Ho cominciato a 15 anni a comprare eroina in Central Park per rivenderla agli amici. Vendendo 10 dosi recupero tutti i soldi e mi rimangono 5 dollari per farmi. Per sballare mi basta sniffare una bustina da 2 dollari. Con 3 bustine passo una giornata fantastica. Un giorno rimango secco e comincio ad andare in astinenza. Torno a casa, mia madre mi vede tremare e capisce tutto e si infuria a tal punto che prende un tizzone acceso dalla stufa e me lo tira dietro. Poi comincia a rompere tutti i miei dischi, butta la chitarra dalla finestra. Quel giorno sono scappato di casa. Sono nata e cresciuta a Dallas. La mia famiglia era metodista, ma un bel giorno mia madre comincia a seguire un predicatore alla radio. Era uno di quei cristiani di destra che quando arriva un terremoto annunciano la fine del mondo e dicono che la colpa è dei peccatori che bruceranno nelle fiamme dell'inferno. Mio padre non la sopportava e dopo un po' si fece una storia con una parrucchiera di 16 anni. A casa mia era un gran casino, non si festeggiava neanche più il Natale. Mio padre portava a casa un abete da decorare e noi bambini eravamo tutti così contenti, ma nostra madre comincia ad urlare: questo albero è il simbolo babilonese di Nimrod, è un sacrilegio! Noi a vedere nostra madre in quello stato cominciamo a piangere. Lei prende l'albero, lo trascina fuori, mio padre lo riprende, lo riporta dentro e urla: e adesso voi decorate questo cazzo di albero! E noi: no papà, non possiamo decorare il simbolo del male babilonese! Prendo le mie cose e faccio l'autostop. E dei tizi mi danno un passaggio sul loro cesso di macchina. Sono dei veri pazzoidi, non fanno altro che parlare di tagliare la testa o strangolare qualcuno. facciamo una sosta in una stazione di servizio dell'Indiana e questi come niente saccheggiano il negozio. Io non ho fatto niente, ma vengo arrestato con loro per rapina. Lo sbirro che ci porta dentro mi dà una possibilità. 10 telefonate per cercare di recuperare i soldi della cauzione. È stato gentile da parte sua. Telefono a tutti quelli che mi vengono in mente. Provo persino con mia nonna nel Missouri. Non sapevo neanche chi cazzo ero. Allora telefono a mio padre. Era la prima volta che chiedevo una qualsiasi cosa a mio padre. E mi ha mandato a fanculo. Vengo condannato a 90 giorni perché ho un coltello. Gli altri invece se ne escono subito perché i loro genitori sono venuti a riprenderseli. Ho 15 anni e sono in prigione. Quando ho compiuto 14 anni mia madre credeva che fossi figlia del demonio e così scappai via di casa. Era successo che aveva sporto denuncia contro di me e fui costretta a passare una notte in carcere. Il giorno dopo, quando venni a riprendermi, ce ne tornammo a casa a piedi. Ma una volta arrivati davanti alla porta di casa, io continuai semplicemente a camminare. Arrivo a New York, all'epoca dei pernottamenti di fortuna. Qualcuno va in hotel, prenota una suite e ci si trasferiscono 15 persone. Era così divertente. Anche se di notte c'era sempre qualcuno che cercava di scoparsi. Un giorno mi chiama una mia amica e mi dice: senti, ti va di andare al Whisky a Go Go? Beh, avevo 14 anni. Era una pazza scatenata. E mi piaceva ficcarmi nei guai, dissi di sì. Pensavo che avrei visto stelle del cinema o robe del genere. Ero così eccitata. When everybody's heard about the bird. Quando esco di prigione conosco John Cummings. Portava i capelli lunghi fino al culo, la fascia attorno alla fronte e delle scarpe da 4 soldi. Diventiamo subito amici perché a tutti e due piace sniffare la colla. Ci piace farci l'abbinata al Twinal o al Seconal. Un vero sballo. Roba da non tirare mai la testa fuori dal sacchetto. Quando non abbiamo la colla invece andiamo al supermercato, prendiamo le bombolette di panna e paf! Ci spariamo il gas della bomboletta. Anche a John Cummings piacciono Iggy Pop and the Stooges. Da non credere! E ascoltano tutti della musica schifosa, gli America, gli Yes. Gli Stooges sono la mia band preferita. E così John Cummings diventò Johnny Ramone. When everybody's heard about the bird. Diventata una groupie piuttosto conosciuta. Ah, quelli erano tempi pazzeschi. Ah, ogni giorno avevo sempre qualche cosa da fare. Mi spostavo da un albergo all'altro perché c'erano i New York Dots in un hotel e magari Lou Reed in un altro. E io non facevo altro che andare avanti e dietro tutto il tempo. Ah. Una sera andai ad incontrare David Bowie. Mi avevano detto che mi voleva conoscere. Ero al settimo cielo. Ciao, David. Oh, ma è proprio vero. Hai gli occhi di due colori diversi. Scopiamo? Diventai una groupie molto famosa dopo quella sera perché veni ufficialmente riconosciuta cool da una vera rockstar. Vai via! Via! Vai via fuori! Fuori! Andate fuori! Via! Andate via! Fuori! Andate via! Andate via fuori! Okay. Walk across the USA. Vivere insieme a Iggy è diventato impossibile. È arrivato al culmine della sua tossicità. Via. Suonarci insieme poi è un vero inferno. Ogni sera prima dello show lui sparisce e sono io che devo andare in giro a cercarlo. A volte lo trovo in bagno, rannicchiato attorno alla tazza del cesso con un ago nel braccio. Mi tocca levarglielo con il sangue che schizza dappertutto. E poi svegliarlo. E trascinarlo sul palco. È divertente? Certo, come no? Voi altri mi fate stare matte. In quel periodo mi ero abituato a veder vomitare Iggy. I primi tempi andava a nascondersi dietro gli amplificatori, ma dopo un po' tutti avevano capito cosa andava a farci. Vomita! Vomita! Quant'è che vomiti? E lui lo fece. Iggy era famoso per accontentare sempre il suo pubblico. Fu un gesto davvero professionista. Credo di non aver colpito nessuno. Io ero in prima fila. Iggy mi ha preso proprio qui, sulla spalla. Ce l'ho ancora quella maglietta. Well, it's 1969, okay? All across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. La canzone 53rd and 3rd parla di un reduce del Vietnam che cerca di farsi rimorchiare all'angolo fra la 53esima e la terza, ma nessuno lo carica. Poi quando finalmente qualcuno si ferma e lo fa salire, lui l'ammazza per dimostrare che non è una femminuccia. Sono tra la 53esima e la terza quando vedo Didi Ramone al suo giubbotto di pelle da motociclista e se ne sta lì fermo sul marciapiede. Capisco subito la situazione perché questa è la zona dove battono i ragazzi gay. Quando Didi ha bisogno di soldi non si fa troppi problemi. So scrivere solo di storie che conosco. Non so scrivere in un altro modo. Ehi, ho della roba, ma non sono capace di farmi. Mi fai tu, ci divertiamo, dai. Andiamo a casa mia. Come on. No. Fu così che io e Nancy Spangin diventammo amici. Dopo un po' però diventava impossibile scrollarsela di dosso. Nancy era un'autentica piattola. Nel 1977, improvvisamente a New York, non trovi altro che eroina, erba, anfetamine, acidi, spariti. Dappertutto c'è solo eroina. Dappertutto. E a buon prezzo. Dal CBGB alle 4 del mattino e vedo questa ragazza seduta sul cofano di una macchina che si affila le unghie. Indossa un abito da sera nero e delle scarpe altissime coi tacchi a spillo. Sembra un'antica contessa vampira pronta ad impadronirsi della mia anima. Si chiama Connie. Prendiamo un taxi fino a Norfolk Street. Compriamo della droga e ci mettiamo assieme. Lei è una prostituta, io un Ramone e siamo tutti e due tossici. All'improvviso Connie era tutto ciò che avevo. A nessuno gliene fregava un cazzo se avevo un posto per dormire o qualcosa da mangiare o della droga. A lei invece importava. Non so come avrei fatto senza Connie. Fingers, fingers, encircling. Clarence era terribile. Non ti lasciava stare finché non l'avevi dato della droga o dei soldi. E mi stava sempre dietro. E una sera, Connie ci trova a letto assieme. Insomma, Connie prende il mio coltello e mi salta addosso come una furia. Nancy se ne fugge via urlando e io mi prendo una coltellata sul braccio. Poi Connie comincia a cercare i soldi di Nancy per tutta la casa. E quando li trova mi guarda e mi dice: dai, vieni, andiamo. Io mi sono fasciato un po' il braccio e siamo andati a farci. My bowels are empty, screening your soul. Oh, I'm walking, I give you, baby, I don't know. Oh, I'm walking, I give you. Signori, qui non abbiamo un altro tizio vestito di vinile rosso con rossetto e tacchi a spillo, no. Questo è Richard Hell, un tizio completamente disfatto che sembra appena uscito da una fogna. Sembra che non dorma da giorni, che non si lavi da anni. Un rifiuto della società di cui non frega un cazzo a nessuno. No. Questo è un meraviglioso, annoiato, sporco ragazzo ferito che indossa una maglietta strappata. A cui non frega un cazzo di te. Prendiamo l'immagine di questo ragazzo con i suoi capelli spettinati, ogni piccolo particolare. Portiamo tutto quanto a Londra e trasformiamolo in una macchina da soldi. Cash from Kill! Ramones suonano a Londra e io sono nel backstage del concerto. Ci sono tutte le band di Londra in questo corridoio. Gioia e Divi. Ci sono i Clash, i Damned, Chest Use Is You. Ci sono anche Sid Vicious e Johnny Rotten. I Ramones offrono una birra a Rotten e lui se la beve tutta. Non sa che i Ramones mettono sempre un goccio di piscio in tutto quello che offrono ai loro ospiti. È il loro tipico scherzo. Nel 1977, a Londra, senti letteralmente la terra tremarti sotto i piedi. Quello che a New York era cominciato quasi come uno scherzo, è stato preso sul serio da un pubblico più giovane e molto più violento. All'improvviso, come in un incubo, centinaia, migliaia di ragazzini, come tanti piccoli spettri, con le facce bianche e i capelli tinti di rosso acceso, portano tutti catene, spille infilate sulla faccia, svastiche. Oh, il pubblico inglese è davvero fantastico! Ti tirano in testa le latine di birra ancora piene! Sacrificano le loro birre solo per il gusto di ferire gravemente un membro della band! E ci riescono! Vedo un tizio proprio di fronte al palco con in mano una caraffa piena di birra. È la prima volta che ne vedo uno mentre si prepara al lancio. Non farlo! Non farlo! Gli dico. Mi colpisce dritto in testa. Non ci vedo più dalla rabbia. Stacco la spina dal basso, scendo in mezzo al pubblico e riesco a stendere 7-8 di quei fuori di testa. E scoppia una risa incredibile. Ma la cosa più folle è che a fine concerto il tizio a cui ho spaccato il basso addosso viene in camerino e mi dice: ehi Richard, mi fai l'autografo? Danger, Ciao Malcolm, sono Nancy. Se ti dico con chi sto uscendo non ci credi. Nancy Spungen è arrivata a Londra. Ed è come se il diavolo avesse mandato una tremenda malattia ad infettare l'Inghilterra, a partire dal mio negozio. L'avevo conosciuta in uno di quegli oscuri, schifosi, lerci, piccoli club di New York. Ed era probabilmente la persona più schifosa che avessi mai conosciuto. Sono così furioso che farei a pezzi il negozio. Vorrei vederla morta. Vorrei che venisse uccisa o rapita. O comunque rimandata immediatamente a New York. Troppo tardi. Sono caratterialmente identici ai Your Dolls, quindi essendo stato io il manager dei Dolls so esattamente cosa aspettarmi da Johnny Rotten. Rotten è quel tipo di persona che se gli offri qualcosa viene immediatamente Johnny, ma se trova qualcuno che dimostra di amarlo di più ti lascia subito ed è completamente incapace di tollerare le critiche. Bene Johnny, vediamo se riesci a cantare qualcosa. O almeno fare finta. Oh, a fare finta sono bravissimo. A cantare veramente non azzecco una nota. Perfetto. È lui. Johnny Rotten è un arrampicatore sociale. Johnny Rotten è uno stronzo. Johnny Rotten non sa cantare. È un impostore. Non ha un'anima. Ha un talento straordinario. È cinico. Un opportunista. È un anarchico. Johnny Rotten non ha nulla a che fare con il rock and roll. È il punk! God save our gracious queen! God save our noble queen! God save the queen! Mettono in scena la loro interpretazione del punk, portando le cose all'estremo. Le band di New York nei loro pezzi esprimono soprattutto dolore, mentre quelli inglesi hanno piuttosto che fare con la rabbia. L'arte diventa molto più interessante quando un artista prova un dolore o una rabbia incredibili. Il tour dei Pistols in America non ha niente a che vedere con la musica, è pura teoria del caos. I Sex Pistols hanno infilato una spilla da baglia nel naso della regina ed ora sono qui a vomitare e ad annunciare la fine del mondo. È il mio capolavoro. La musica è uscita dalla sezione spettacoli ed è finita in prima pagina. I Sex Pistols erano in televisione tutte le sere. I telegiornali dicevano: il fenomeno Sex Pistols ha invaso l'America. Hai sentito la notizia? Quale notizia? Malcolm e gli altri sono partiti per il Brasile. Non suoniamo più insieme, è finita. Ma stai scherzando? Lo spettacolo faceva schifo, ma non gliene fregava un cazzo a nessuno. Ho smesso di farmi prendere per il culo. Ma come? Siete la band più famosa del mondo e vi siete sciolti? Ah, fantastico. Fate sempre il contrario di quello che ci si aspetta da voi. Scopriamo. Il punk non è più in grado di fruttare. Perché creare un pubblico per i Ramones, i Clash, i Sex Pistols, quando è nella loro stessa natura distruggere se stessi e gli altri? L'intera faccenda si è trasformata in un enorme cumulo di merda a cui nessuno vuole più avvicinarsi. Troppa violenza. A New York, appena varcata la soglia del CBGB, ti arriva una bottigliata nei denti. No, no. Io e gli altri Dead Boys eravamo molto ubriachi quella sera. Così cerchiamo di chiamare un taxi. Quando arriva questa macchina che sbanda e si dirige verso di noi come per investirci. Poi si ferma e questi stronzi escono tutti dalla macchina. Erano in cinque. Che cazzo stai facendo? Che cazzo stai facendo tu? Io sto semplicemente chiamando un taxi, coglione! In un attimo uno di questi tira fuori una cazzo di catena e l'altro una mazza da baseball. Io ho il coltello in tasca e penso che se lo tiro fuori poi mi tocca anche usarlo. Ma il tizio con la mimetica comincia ad avvicinarsi e allora glielo faccio vedere. La reazione normale sarebbe quella di allontanarsi, ma quello si avvicina ancora. Tira un pendente. La lama passa direttamente attraverso il tessuto e gli taglia il petto. Quando quello alza la catena per colpirmi, il petto gli si apre e lui si accascia a terra. Cerco con lo sguardo i miei amici e mi sembra di vedere un tizio che pesta qualcuno a terra. Corro a vedere. E quando mi avvicino mi accorgo che i pugni non sono pugni. Sono coltellate. Quella sera Johnny aveva una maglietta con scritto Conan a caratteri fluorescenti. Mentre tutti scappano vedo la scritta. E capisco che il tizio a terra è lui. È in un lago di sangue. Ha il torace completamente squarciato. Chiamiamo un'ambulanza, portiamo Johnny in ospedale e quando arriviamo lì ci dicono che potrebbe non farcela. Voglio sporgere denuncia, quei tizi hanno assassinato il mio amico. Ma gli sbirri avevano già tutti in mano quelle riviste idiote sui Dead Boys e arrestano me. Pensano che sia stato io ad accoltellare Johnny. I medici si mettono subito al lavoro sul corpo di Johnny, ma quando il chirurgo gli taglia la maglietta e gli vede sul petto il tatuaggio con la svastica del cazzo, smette subito di operarlo. Il chirurgo era ebreo. Allora un altro tizio, un nero, si avvicina e gli fa: amico, non possiamo lasciarlo così. Così quel tizio di colore lo opera da solo, per 8 ore filate. Gli ha salvato la vita. Un tipo in gamba. I Ramone sono in tour da 5 anni senza interruzione. Non lo posso più vedere quel furgone del cazzo. Passo tutto il tempo seduto sul sedile posteriore a guardare fuori dal finestrino. Non ci rivolgiamo più nemmeno la parola, non ci guardiamo più nemmeno in faccia, non scendiamo più nemmeno dall'autobus assieme. Ma la cosa che odio di più è suonare quel maledetto brano, Pinhead. La odio quella canzone di merda. Ogni volta che inizia, quel ciccione di 150 kg sale sul palco, vestito con quel costume da deficiente, e inizia a saltare. È così grasso che ogni volta che salta il microfono mi sbatte sulla bocca. Ho i denti scheggiati per colpa di quel pezzo di merda! Connie è morta. Non la vedevo da un anno. L'hanno trovata morta su un marciapiede, con un ago nel braccio. E io sono qui, con questo stronzo che balla. La droga ha cominciato a portarsi via tutti i miei amici. A volte penso che vorrei essere io il prossimo. Ma la cosa positiva di Pinhead è che la facciamo sempre verso fine concerto, così quando io la sento iniziare mi dico: dai Didi, suoniamola sta canzone di merda e togliamoci dalle palle. L'ultimo concerto di Patti Smith è stato a Firenze. Ci fu una sommossa. Il pubblico sembrava impazzito. Patti aveva fatto sentire la registrazione di un discorso del Papa e la gente non la prese molto bene. Eravamo stufi di sentire quelle stronzate. E poi Patti ha fatto alzare la bandiera americana. Abbiamo fatto saltare le transenne. C'era della gente che tirava dei pezzi di legno con dei chiodi infilati dentro direttamente sul palco. Quelli della sicurezza si sono cagati sotto e sono spariti. Noi siamo saliti sul palco, abbiamo preso gli strumenti e abbiamo cominciato a suonare. Ivan Kral si era nascosto nella custodia di una delle tastiere, mentre invece gli altri del gruppo cercavano di essere più gentili possibile perché volevano evitare situazioni esplosive. Ma era chiaro che erano terrorizzati, soprattutto Patti. Probabilmente non avevano mai suonato davanti a 70.000 persone. Dopo qualche giorno ho saputo che il gruppo si era sciolto. Il punk era una meravigliosa forza vitale articolata dalla musica che mira a corrompere qualsiasi cosa. Non aspettare che qualcuno ti dica che cosa fare. Non è importante essere perfetti, la vera creatività nasce dal disordine. Parti da tutto ciò che ti trovi davanti, da tutto quello che di più imbarazzante, orribile, stupido trovi nella tua vita. Questo era il punk. Mentre dalla mattina alla sera il punk era diventato stupido, come tutto il resto. Perfino Vogue aveva pubblicato un articolo sul punk. E quando uscì il numero di quella rivista al CBGB incontrai Diana Vreeland, la direttrice, con un gruppo di turisti. Volevano farsi un giro nei bassi fondi. È proprio finito tutto. Dopo lo scioglimento dei Sex Pistols, Sid Vicious si trasferì a New York e viveva con Nancy al Chelsea Hotel. Io avevo un coltello da 007 e Sid mi disse: Didi, voglio anch'io un coltello come il tuo. Lo voleva comprare subito, così andammo tutti quanti a Times Square. Sid e Nancy avevano un sacco di soldi quel giorno ed erano completamente imbottiti di tuina. Nancy era così fatta che le cadevano di mano le banconote da $100. E per tutta Times Square ci seguiva una coda di persone pronte ad aspettare che cadesse la prossima banconota. Tutti ridevano di Sid perché andava a sbattere contro i lampioni e Nancy gli rompeva continuamente le palle. Povero Sid. Aveva finito col credere veramente a quello che la stampa diceva di lui. Si era completamente identificato in quel personaggio. Non erano nemmeno capaci di comprarsi la droga. Sid prendeva sempre un sacco di botte e gli vendevano della roba di merda. Era una vittima nata, Sid. Una volta io gli ho fatto un buco al contrario, con un ago verso giù, invece che verso su. Lui si cagava sotto, ma non ha avuto il coraggio di aprire bocca. Sid Vicious, bassista della scatenata band punk inglese Sex Pistols, è stato arrestato ieri con l'accusa di aver pugnalato a morte la sua bionda e sensuale fidanzata nella loro stanza del famoso Chelsea Hotel di Manhattan. Il corpo della signorina Nancy Laura Spangin, 20 anni, in mutande e reggiseno di pizzo nero coperti di sangue, è stato ritrovato accasciato sotto il lavandino del bagno con una profonda pugnalata nell'addome. Sid non è cattivo. Sid è un tale invertebrato che lo chiamiamo Vicious per prenderlo in giro. La madre di Johnny Rotten aveva un criceto che si chiamava Sid. Un giorno il criceto l'ha morsa e Rotten ha chiamato il criceto Sid Vicious, Sid il cattivone. Ecco com'è nato il nome di Sid. Sid amava veramente Nancy. Voleva sempre parlare di Nancy quando era con me. Nancy, Nancy, Nancy. Perché io l'avevo conosciuta prima di lui. Ma è vero che si prostituiva? Certo che è vero. Lo faceva in una casa di appuntamenti. Lei stava nella stanza Sadomaso, sai quella con le fruste? Dei banchieri tedeschi le davano un sacco di soldi per farsi frustare mentre camminavano a quattro zampe e le leccavano gli stivali. Una volta ha chiesto anche noi se volevamo andarci. Così quando non sapevamo che cazzo fare dicevamo: beh, potremmo andare a farci frustare da Nancy. Ma lo faceva veramente? Certo che lo faceva veramente. E Eh sì, l'amava ancora di più. Quando mio figlio, Sid, è stato in carcere, dovevo portargli io l'eroina. Avevo inventato un ottimo trucco. Mi mettevo l'eroina negli stivali, che erano pieni di bocche di metallo. E quando passavo attraverso il metal detector e l'allarme suonava, io dicevo, oh, scusate, devono essere gli stivali. Poi, mentre mi toglievo gli stivali, mettevo la roba nell'orlo dei pantaloni. Passavo un'altra volta attraverso il metal detector, ma a quel punto l'allarme non suonava e nessuno pensava più a perquisirmi per cercare la droga. Poi, una volta nello stanzone delle visite, io gliela passavo di nascosto. Così sì, poteva farsi la sua dose. Diceva che se non si faceva stava troppo male. Ma non lo facevo sempre. Solo qualche volta. Quando Sid uscì di prigione gli organizzammo una festa e cucinammo degli spaghetti. Sembrava una serata assolutamente normale. Ma... mi dai un po' di soldi? Per favore, ma dammi un po' di soldi. Voglio solo uscire a comprare un po' di coca. Sicuro che ti compri solo un po' di cocaina, Sid? Sì, ma non prendo eroina. Vabbè, tanto te li procureresti lo stesso, te li do io, ma poi mi torni a casa, vero, Sid? Sì, ma non ti preoccupare. Torno subito. La star del punk, Sid Vicious, è stato trovato morto in un appartamento del Greenwich Village. La causa del decesso di Vicious potrebbe essere stata un'overdose di eroina. Il cadavere è stato ritrovato disteso a faccia in su nel letto di un appartamento al 63 di Bank Street. Sid Vicious aveva 21 anni. Era impossibile trovare un servizio di pompe funebri che non ti chiedesse un miliardo di dollari solo perché il morto era Sid Vicious. E poi volevamo trovargli un bel posto dove seppellirlo, in modo tale che la gente potesse andare a visitare la sua tomba. Sid avrebbe voluto essere seppellito accanto a Nancy. E così chiedemmo ai suoi genitori. Dissero di no. E allora andammo in macchina fino a Filadelfia. per spargere di nascosto le ceneri di Sid sulla tomba di Nancy. Prima di arrivare ci fermammo, perché io volevo vedere che aspetto avessero le ceneri. Non avevo mai visto le ceneri di una persona. Le pressano in un contenitore di latta, come una latta d'olio. E l'apertura è come quella dei contenitori sottovuoto. E le pressano così tanto che diventano solide. Sembrano più ghiaia che ceneri, una latta d'olio piena di ghiaia. Mentre in realtà sono ossa, tendini, nervi. Arriviamo al cimitero e veniamo scortati da due persone che lavorano lì e che si rifiutano di lasciarci da soli. Nancy era ebrea e non si possono seppellire dei non ebrei in un cimitero ebraico. Ma la verità è che non volevano avere niente a che fare con sé. E allora rimaniamo lì in piedi, davanti alla tomba. Comincia a nevicare. Piangiamo. Diciamo qualche preghiera. Deponiamo dei fiori. E poi andiamo in macchina fino all'uscita del cimitero. Parcheggiamo. Io prendo le ceneri di Sid. Scavalco il cancello. Ceneri di Sid sulla tomba di Nancy. Ecco, ora sono finalmente insieme. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Ho 25 anni nell'80. Una sera vado a trovare Blondie in camerino. Io l'avevo conosciuta quando faceva la cameriera al Max. E adesso era una star. È lì con gli altri membri della band, davanti a una valigetta, piena di coca. Guarda, mi dice, possiamo averne quanta ne vogliamo. Siamo nel music business ora. Non ci vuole del particolare talento a buttare giù della droga. Ecco perché secondo me ci abbassiamo tutti a livello di Sid. Con la cocaina ritornarono i soldi. Reagan fu eletto presidente, insomma, le cose sono andate come sono andate. Gli hippie erano sopravvissuti a Nixon. Il punk piegò la testa davanti a Ronald Reagan. E forse questa è la cosa più triste. Il punk non aveva la forza per affrontare una sfida vera. Sono Iggy Pop. Il mio nome è James Tostberg e ho sviluppato da molto tempo una dipendenza verso droghe molto pesanti. Ma ne sono uscito. Credo. Il fatto è che sono diventato un idiota che prende delle pillole e spava continuamente. Ma devo prenderle! Sono caduto da un palco alto 5 metri, mi fa male la schiena! La verità è che non riesco a dormire. Sono fuori di testa! Il mio amico David Bowie mi ha detto che devo imparare a fare dei compromessi. Io ho l'assicurazione medica e questo è un ospedale, giusto? È il mio amico David che mi ha detto di venire qui. Io voglio solo dimenticare tutto e ricominciare tutto da capo. Quindi voi potreste tenermi chiuso qui per un bel po' e fare in modo che nessuno dei miei vecchi amici riesca a trovarmi, eh? Andava in città a comprare della marijuana. Si fissò a lungo nello specchio. Si girò per bene la sciarpa di lana attorno al collo. Poi prese la bicicletta e uscì. Era il 17 luglio 1988, il giorno più caldo dell'anno. C'erano 35 gradi all'ombra a Ibiza. Da giovane, mia madre era stata il prototipo della fotomodella tedesca, alta, bionda, era bellissima. E io nacqui dal suo matrimonio con Alain Delon. Ma per essere accettati nel mondo della droga occorre essere repellenti e fare rumori schifosi. Così mia madre fece di tutto per avere un aspetto orribile e una voce orribile. Ci mise molto tempo, ma ci riuscì. Negli ultimi anni della sua vita indossava sempre quei camicioni lunghi di lana hippie per nascondere quel suo fisico ormai sfatto, sfigurato dalla droga. Molto probabilmente quel giorno, quando uscì in bicicletta, si prese un colpo di calore. L'uomo che la trovò sul ciglio della strada la portò in due o tre ospedali diversi, ma nessuno accettò di ricoverarla. Nico, mia madre, morì perché non aveva un'assicurazione medica. il rock è una cosa talmente grande che la gente dovrebbe cominciare a morire per il rock. Eravamo tutti lì, i suoi migliori amici, gli unici che gli erano rimasti vicino fino alla fine. La musica ti permette di sognare, ti restituisce il tuo stesso battito. Suonavamo insieme, molto tempo fa. Il suo desiderio era di essere cremato, e così avevamo fatto. Tanti muoiono per delle cazzate. Perché non per la musica? Nel suo testamento aveva scritto che ognuno dei suoi amici avrebbe dovuto farsi una pista con le sue ceneri. And you try.